Marella, brutta bella, falsino di guri, non c'è to, ma c'è to. Sì, lo risolvo io. insegnamento. Che guarda, carro Rodolfo. Sentimi. Alla sinistra, alla sinistra. Ma si faccio mi sono pedizzato. Calmati, che mi stai inquietando tutta la antenna. Se ne muove. Antoine. e siamo ormai sono 4 minuti a mezzanotte. 4 minuti a schioccare la mezzanotte, Pavarotti. Mi segna le 23.52. Qua mi segna le 23.50, sì, capisci a me? Ha ragione. 56, 57 adesso. Sei avanti, cambia. Io, che fa? Sì, sei avanti, perché? Oggi quanti minuti? Sono... Allora, adesso te lo diciamo con precisione. Ah, qua sono le 23.54 minuti e 4 secondi. Allora sono avanti io, vai. Allora sono avanti io, per fa? Sì, sei avanti. Come com'è questa leccaleccia, com'è Pierpaolo? Va bene, va male, lo tocco, non lo tocco, rispondimi. Senti! Ascoltiamo tutte le prossime linee. Ciao, QRX, la parte via.